Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Startup e medici oggi in primo piano, in una puntata che unirà in modo anche un po' singolare due mondi apparentemente molto lontani. Sullo sfondo ancora una volta la Gran Bretagna e Londra in particolare, serbatoio inesauribile di storie per la nostra trasmissione. Per la pagina statistica vi presenteremo uno studio molto interessante che mette sotto la lente di ingrandimento la nuova immigrazione dall'Emilia a Romagna. Facciamo ora le valigie verso un paese decisamente giovane rispondendo al classico quesito: perché i nostri giovani lasciano la penisola? L'ambiente di lavoro italiano purtroppo è poco meritocratico e ci sono poche possibilità di fare carriera, ed è proprio il motivo per il quale ho deciso di studiare e trovare un lavoro che mi desse più soddisfazioni in un paese che non fosse l'Italia. Giorgia Bacco, 33 anni, è una start-up nel settore medico a Londra. Tutto è nato per lei dall'osservazione di un bisogno, da qui la sua idea molto originale. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Rispetto ai propri coetanei di Francia, Inghilterra, Spagna e soprattutto della Germania, i giovani italiani sono quelli che vedono con una maggior preoccupazione la situazione nel proprio paese e considerano le opportunità che offre sensibilmente peggiori rispetto al resto del mondo sviluppato. Proprio per questo il 60% si dice pronto a lasciare la penisola, mete preferite Gran Bretagna e Stati Uniti. Sono i dati evidenziati dal rapporto giovani. L'88% dei giovani italiani è disposto a emigrare stabilmente pur di migliorare le proprie condizioni di vita e lavoro, sensibilmente differenti le percentuali dei coetanei francesi col 15%, quelli tedeschi col 5%, gli inglesi col 7% e gli spagnoli col 20%. Dopo il tirocinio europeo Erasmus Plus, il 51% dei ragazzi italiani riceve un'offerta di lavoro dall'impresa che l'ha ospitato, la media comunitaria è del 30%, a rivelarlo il Corriere della Sera. E nell'anno scolastico 2013-14 oltre 26.000 studenti italiani hanno beneficiato di un periodo all'estero, mentre le nostre università hanno accolto oltre 20.000 giovani. Lo attestano proprio i dati di Erasmus Plus. Tra gli atenei più attivi nell'inviare i propri studenti oltre confine, Università di Bologna, Padova e La Sapienza di Roma, che risultano anche i più attrattivi nel ricevere studenti europei. Interessanti i paesi scelti dagli studenti italiani: nella top 5, oltre ai tradizionali Spagna, Francia e Germania, figurano anche Turchia e Polonia. E ora una ricerca realizzata dall'associazione iTalents e presentata di recente che fa il punto sulla nuova immigrazione professionale, con un focus interamente concentrato sull'Emilia-Romagna. L'indagine ha riguardato gli emiliano-romagnoli all'estero e i controesodati nella regione, per un totale di circa 300 intervistati. Paolo Balduzzi, ricercatore dell'Università Cattolica, Dipartimento Economia e Finanza, nonché segretario di iTalents, traccia il loro identikit. Sono persone che hanno scritto titoli di studio elevatissimi, basta pensare che più del 50% ha una laurea e addirittura circa un quarto per i residenti all'estero e poco più del 10% per i rientrati addirittura il dottorato, quindi sono cifre che non sono neanche paragonabili con invece le percentuali che si riscontrano nel nostro paese. È interessante vedere le motivazioni che portano a uscire dall'Italia, spesso le conosciamo, ma anche quelle che poi portano a tornare in Italia. Per quanto riguarda le motivazioni per lasciare l'Italia, la motivazione principale è la mancanza di meritocrazia e trasparenza nelle carriere, nelle modalità di accesso al mondo di lavoro e in generale le condizioni lavorative, non necessariamente le maggiori remunerazioni, quanto proprio le condizioni di lavoro. La maggior parte delle persone che rientra è vincolata anche da motivi familiari, quindi ci sono motivazioni, se vogliamo, economiche, ci sono motivazioni anche familiari. Un punto forse poco conosciuto nelle problematiche di ritorno in Italia dall'estero è quello di, chiamiamoli pure, servizi o informazioni su come tornare e riavviare o avviare una carriera. Ci sono leggi, ma poi magari manca qualcosa in più. Cos'è questo qualcosa in più? Questo qualcosa in più, nelle ipotesi che abbiamo fatto noi, che abbiamo sottoposto a chi ha compilato il questionario, possono essere servizi appunto per una più facile vita familiare, quindi una presenza di maggiori asili nido o pratiche per assistere i familiari, ma anche servizi di tipo economico, quindi maggiore facilità di trovare lavoro, ma anche maggiore facilità di fare attività di impresa. Notizie in chiaroscuro sul fronte delle startup italiane, se sono sempre di più i giovani imprenditori innovativi con le imprese tecnologiche che hanno sfondato, dati Infocamere alla mano, quota 5.000 lo scorso dicembre, beh, ciascuna di loro impiega una media di soli 3 dipendenti, solo 72 le startup che hanno raccolto finanziamenti pari a $1 milione contro le 400 britanniche e le 200 di Francia e Germania. Four Stars e Fondazione Terzo Pilastro assegnano 6 borse di studio a copertura totale per internship di 6 mesi a Shanghai. Sarà possibile candidarsi all'iniziativa inserita nel progetto Stage in Cina fino al 7 marzo. Tutte le info su www.stageincina.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta oltre manica. Startup e medicina possono andare a braccetto. A Londra, se alla base c'è l'intuizione giusta, intuizione tutta italiana. Andiamo allora a capirne di più. Nome: Giorgia. Cognome: Bacco. Età: 33 anni. Città di origine: Genova. Studi: laurea in relazioni pubbliche e pubblicità e master in international marketing and communication. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? A Londra. Perché? Per fare il master. Quale lavoro svolge attualmente? Lavoro in marketing e ho aperto una clinica per italiani a Londra. Dove? Gran Bretagna. Tornerai? Non in un futuro prossimo, ma non escludo questa possibilità. Giorgia, c'è una domanda che la tua storia impone. In una città come Londra, già definita la 13ª città italiana grazie agli oltre 200.000 connazionali residenti, quanto si sono ingigantite le opportunità di business per offrire servizi legati proprio alla nostra comunità? Attualmente ci sono molti più servizi. Se faccio un paragone tra quando sono arrivata e oggi, ai tempi i servizi italiani erano concentrati soprattutto sulla ristorazione, mentre adesso si vanno a specializzare in servizi molto più specifici, come per esempio in ambito della salute o anche commercialisti, insomma rispondono ad esigenze molto più specifiche, ecco. Allora, la tua storia professionale inizia con una laurea in relazioni pubbliche e pubblicità a Milano. Perché hai preso questa strada? Perché volevo fare qualcosa di nuovo, che avesse a che fare con la comunicazione, la creatività. E, diciamo, a Genova non c'erano molte possibilità in questo ambito e così ho deciso di andare a Milano. Allora, chiedo sempre a tutti, qual è il tuo voto personale all'università italiana, sinceramente? Allora, il mio voto all'università italiana è un voto buono, nel senso che non credo che sia l'istruzione l'università il problema dell'Italia. Io mi sono trovata benissimo. Dopo la laurea triennale inizi a lavorare per alcune agenzie di pubblicità tra Milano e Torino. Che ricordo hai in retrospettiva del nostro ambiente di lavoro nella penisola? Allora, l'ambiente di lavoro italiano purtroppo è poco meritocratico e ci sono poche possibilità di fare carriera, ed è proprio il motivo per il quale ho deciso di studiare e trovare un lavoro che mi desse più soddisfazioni in un paese che non fosse l'Italia. E infatti, in un'intervista per un giornale web hai lamentato che quando lavori per un'agenzia italiana le idee creative arrivano tutte da fuori, dal cliente oppure dai piani alti dell'azienda. Non c'è spazio per le tue. Ti chiedo, è un paese irriformabile culturalmente, dove se sei troppo giovane o troppo in basso nella gerarchia aziendale non hai diritto di pensiero creativo o semplicemente di pensiero? Diciamo che no, c'è libertà di pensiero. Il problema è che non... probabilmente la difficoltà è nel esprimere questo pensiero, quindi difficilmente si dà la possibilità ai giovani di esprimere le proprie idee, e le idee solitamente arrivano dall'alto e si limita poi a eseguire quello che viene richiesto, ecco. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Per lavorare in un'azienda dove si definissero le strategie di marketing e comunicazione, mi sono trasferita a Londra per affrontare un master in International Marketing and Communications alla London Metropolitan University. Allora, che differenze hai trovato, Giorgia, nell'insegnamento anglosassone se paragonato a quello italiano? Beh, in realtà non mi è possibile fare un vero e proprio paragone, perché il tipo di studio che ho fatto in Italia è diverso da quello che ho fatto in Inghilterra, nel senso che in Italia ho fatto un percorso di laurea e qua ho fatto un master. Però quello che ho notato è stato che diciamo, la presenza del professore in Inghilterra è molto minore e l'individuo è indipendente e responsabilizzato, diciamo, potremmo dire. Sì, esatto, esattamente, è proprio responsabile dei progetti, ecco, che svolge. Quanto è stato facile inserirsi poi nel contesto lavorativo britannico dopo il master? Non è stato semplicissimo. A differenza dell'Italia, in Inghilterra ha più importanza l'esperienza lavorativa piuttosto che il percorso di studi. E io quando sono arrivata qua ho fatto un master, ma non avevo nessuna esperienza in marketing a livello lavorativo e non avevo nessuna esperienza lavorativa in Inghilterra, per cui non è stato semplicissimo. Però ecco, arriviamo al punto, hai potuto poi sfogare la tua creatività, quella creatività in Italia era più difficile invece liberare. Esattamente, perché qui il sistema è molto meritocratico, quindi nel momento in cui poi uno dimostra di avere le capacità riesce facilmente. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giorgia Bacco, 33enne start-upper nel settore medico a Londra. Dopo una formazione nel marketing, Giorgia prende la strada della capitale britannica, dove anche per caso nota una forte domanda nel settore sanitario, in particolare da parte delle nostre connazionali. Di qui l'idea di business per uno studio medico tricolore che lei sviluppa e incuba direttamente in università. Dottore, London è ora una realtà e ha al suo interno diversi nostri giovani medici in fuga. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Arriviamo all'idea che ha cambiato poi la tua vita e che ti ha portato ad aprire un business in un settore completamente diverso dal tuo, lontano anni luce. L'idea nasce da una semplice constatazione. In UK, con un sistema sanitario differente, visite e interventi specialistici, per noi assolutamente forse scontati, possono risultare molto rari. In due parole ci spieghi meglio? Allora, che cosa succede? Che qua tutto passa tramite il medico di base. Quindi se io sono una ragazza e ho un problema, per esempio ginecologico, vado dal medico di base, il medico di base mi dice se devo avere una visita specialistica o meno. Se decide che ho una visita specialistica, allora mi prende l'appuntamento con il ginecologo, altrimenti questo non accade e quindi bisogna ricorrere al privato, che costa che molto. Costa, a esatto. Allora, così nasce la tua idea di aprire uno studio medico per italiani con dottori italiani. L'idea alla base fa perno sulle visite ginecologiche, l'hai detto, ma poi come vedremo il modello si estende. La cosa interessante è che per realizzarla torni in università. Come funzionano gli incubatori di imprese da voi? Allora, funzionano praticamente l'incubatore è uno spazio fisico che viene dato al business, quindi alle start-up, e in questo modo non ci sono incombenze amministrative e permettono ai nuovi business di concentrarsi sullo sviluppo dei loro progetti e in più mette insieme diverse start-up che solitamente hanno esigenze comuni e quindi c'è uno scambio di idee e collaborazione piuttosto alto. Ecco. Nel maggio 2014 vinci The Big Idea Challenge, in due parole quali vantaggi ti porta? In concreto è stato un trasferimento su conto corrente di £2,500 e un sito, mi hanno realizzato un sito web e mi hanno dato una ricerca di mercato a livello gratuito. Poi ovvio che il contributo principale secondo me è stata proprio la spinta a realizzare il progetto, quindi a realizzare l'idea. Infatti in soli 5 mesi la tua startup Dottore London diventa operativa. Ti chiedo, nella pratica cos'è oggi Dottore London? Quanti medici italiani vi collaborano e a quali altri settori poi avete esteso le visite? Allora, i medici attualmente sono 11, quindi da ginecologia e pediatria, adesso abbiamo anche dermatologia, fisioterapia, logopedia, abbiamo un nutrizionista, un otorino e un medico di base. Come ha risposto la nostra vastissima comunità italiana? Ti sei dimostrata interessata a questa opportunità? Sì, molto interessata, tanto che noi non abbiamo investito in praticamente nulla in pubblicità ed è tutto un passaparola, quindi abbiamo aumentato i pazienti da diciamo 18 pazienti al mese a oltre un centinaio ed è avvenuto tutto tramite il passaparola di pazienti contenti. Tralascio anche il fatto, lo dico velocemente, che continui però a lavorare nel marketing e nella comunicazione, che è l'altro tuo lavoro. Ti chiedo un'ultima riflessione. Londra, ci scrivi, è una città che ti stimola ad avere nuove idee, ti aiuta a realizzarle in tempi straordinari, tutto viaggia velocemente, devi essere pronto a mantenere il passo imposto, ma se l'idea è vincente non c'è niente che possa limitarne la realizzazione, rifletti. Vedi la stessa energia nelle nostre città? No, assolutamente. È tutto molto lento e macchinoso. Allora la domanda è conseguente: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Come vedo l'Italia dall'estero, vedo un paese lento, dove diciamo la burocrazia demotiva qualsiasi tipo di idea e quindi non c'è possibilità di realizzarlo, comunque di realizzarla in tempi brevi. Quello che secondo me servirebbe, la burocrazia dovrebbe essere più snella in modo da far sì che tutto venga realizzato più velocemente e quindi di anche la motivazione, no, per voler realizzare qualcosa in tempi brevi. Ci raggiunge ora in linea Luca Molinari, giovane medico pediatra a distanza proprio a Londra. Buon pomeriggio, Luca. Ciao Sergio. Allora Luca, tu sei uno dei medici che collaborano con lo studio medico di Giorgia e sei pediatra. La tua storia, tieni a precisare, non è di fuga dall'Italia. In brevissimo ce la racconti? In realtà avevo un contratto a tempo indeterminato nel mio ospedale, la mia carriera era avviata, ma diciamo che la scelta è stata legata a considerazioni personali, quindi più che altro al fatto di non sentirmi a mio agio in un paese come l'Italia, e inoltre anche avevo voglia di confrontarmi con una città come Londra che conoscevo bene e di cui ero già innamorato e lo sono ancora, devo dire. La cosa interessante è che però tu gestisci un gruppo Facebook, Medici Italiani a Londra, avete 8.000 iscritti. Chi sono? Qual è anche sommariamente il loro identikit? Devo dire che molti di questi iscritti sono medici più o meno giovani che dall'Italia ci seguono e ci scrivono e a diversi gradi stanno valutando l'idea di trasferirsi qui a Londra. Riceviamo davvero numerosi messaggi, cerchiamo di rispondere a tutti ovviamente. Nell'email che l'hai inviato a giovanitalenti@radio24.it tracci i motivi che portano così tanti giovani medici a lasciare l'Italia. In primis sembra incredibile questo in un paese che invecchia e che di cure sanitarie avrà sempre più bisogno, eppure c'è la disoccupazione. Quanto è grave questa disoccupazione? È vero, sembra proprio paradossale la disoccupazione dei medici. Ora le ultime cifre non lo so, io mi ricordo che erano intorno al 27%, ma comparata con una disoccupazione dello 0% qua in Inghilterra, questo significa che un medico dall'Italia può venire in Inghilterra e iniziare a lavorare il giorno dopo, anzi verosimilmente riceverà più offerte. Stai stimolando a scrivere e mandare curricula, stai incentivando la fuga. Però tu denunci anche un sistema immeritocratico in Italia. Nella pratica ti chiedo come si manifesta quando sei un giovane medico nella penisola. Il solito problema del doversi legare a qualche barone della sanità per non finire ai margini? Sì, lo sappiamo tutti come funziona. Ti dico come funziona qua in Inghilterra. Qua contano la voglia di attuare, voglia di fare e l'attitudine positiva. L'attitudine positiva è molto importante perché devi veramente mostrare gentilezza, voglia di impegnarti e se metti questa attitudine positiva nell'organizzazione del sistema inglese, le possibilità di crescita professionale sono enormi e non sono legate a nessun barone e a nessuna conoscenza come in Italia, ma solo alle tue capacità. E questo è fondamentale. E poi c'è il problema dei medici specializzandi. Questi veramente, per quanto riguarda loro, c'è davvero un forte flusso. Cosa li attira in particolare che in Italia non trovano? Sì, per esempio io non sono un chirurgo, ok, ma i miei colleghi chirurghi che sono qua mi dicono che in specializzazione possono e riescono a fare cose che in Italia non sarebbero mai riusciti, cioè interventi chirurgici in autonomia dal primo anno e cose di questo genere. In Italia la formazione specialistica, ma in genere nelle università, è molto teorica, mentre qua ti insegnano proprio a essere autonomo, proprio perché lo dovrai essere poi una volta specializzato. Un conto è studiare come è fatta una macchina, un conto è guidarla. Esatto. E poi comunque in un sistema così dinamico e fluido come quello inglese, alla fine tu riesci a fare quello che vuoi fare. Grazie a Luca Molinari, in bocca al lupo per la tua carriera. E domanda di diritto per Giorgia Bacco: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Se ha un'idea chiara di quello che vorrà fare, delle sue capacità, gli consiglierei assolutamente di lasciare l'Italia e seguire i propri sogni. Però, ripeto, non è tutto così semplice, bisogna sempre avere comunque in mente cosa si vuole fare e le motivazioni per farlo. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Ultimo sabato del mese, come tradizione vuole, spazio alle vostre lettere, quelle che inviate ogni settimana a giovanitalenti@radio24.it. Lettere che contengono riflessioni, proposte e anche denunce. Continuate a scriverci. Oggi ospitiamo la missiva di Federico, giovane dottorando italiano negli Stati Uniti. Con lui irrompe una straordinaria carica di positività. Sentite perché dalle sue stesse parole. Buongiorno, mi chiamo Federico, sono nato in Brianza 39 anni fa e sto facendo il dottorato di ricerca in matematica alla Louisiana State University. Ho sempre avuto una grande passione per la matematica, ma inizialmente non ho seguito questo percorso e mi sono iscritto a ingegneria strutturale. Ottenuta la laurea nel 2004, iniziai subito a lavorare come ingegnere civile progettista per una società che si occupava di progettazione e collaudi strutturali. Poi un giorno incontrai per caso un mio ex compagno di scuola che sapevo essere diventato giovanissimo, ai tempi aveva 32 anni, professore di matematica alla Colorado State University. Gli raccontai che mi stavo per laureare in matematica e che mi piaceva moltissimo. Lui mi disse: «Ma non ti piacerebbe, dopo la laurea, venire negli Stati Uniti a fare il dottorato?» Pensavo fosse uscito di senno. Avevo 32 anni e completamente fuori dal mondo accademico. Lui però mi spiegò che una cosa così negli Stati Uniti non è così strana. Fare il PhD rappresenta un vero e proprio lavoro, e se la si ottiene, la borsa di studio permette di vivere più che dignitosamente. Io non aspettavo altro che sentirmi dire quelle parole. I due anni successivi li passai a cercare di raccogliere tutti i documenti necessari per poter fare le application. Il processo di selezione si basa solo sui documenti spediti e dà veramente a tutti le stesse possibilità di entrare. Una cosa incredibile è che l'età del candidato conta pochissimo. Quello che cercano è gente motivata. Applicai a 13 università. Entrai in 5, due di queste con borsa di studio. Scelsi la Louisiana State University, così nell'estate del 2013, all'età di 37 anni, sono partito per inseguire il mio sogno, diventare un matematico ricercatore. Negli ultimi due anni sono stato a conferenze un po' dappertutto. Ho conosciuto alcuni dei matematici più famosi nel mio campo e sto imparando tantissimo. Inoltre, mi stanno insegnando ad insegnare. Quello che vorrei trapelasse dalla mia storia è che nella mentalità e cultura americana sono possibili cose che per noi italiani non possono nemmeno essere prese in considerazione. Io non avevo proprio preso in considerazione di poter fare in Italia, alla mia età, quello che sto facendo qui. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Vi aspettiamo. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.